Dunque, i rapporti tra la Nigeria e l'Italia al momento sono, diciamo, evidenziati ovviamente dal forte afflusso di immigrazione, di sbarchi. Gli sbarchi di nigeriani sono i primi per nazionalità che si verificano sulle coste italiane, di questo una consistente caratterizzata da donne che in Italia arrivano dalla fine degli anni Ottanta più o meno e che sono per la maggior parte impiegate, per così dire, nel mercato del sesso, della prostituzione, che appunto in Italia cambia i suoi connotati in una maniera abbastanza evidente proprio in quel periodo, quando alla prostituzione italiana si sostituisce in parte quella immigrata e l'epoca dell'AIDS, dell'HIV e quindi anche di una diciamo, maggiore pericolosità per le donne, per le persone in generale che esercitano questo mestiere, quindi appunto la componente immigrata diventa sempre più significativa in un quadro in cui ovviamente in Italia iniziano i migratori da fuori l'Europa e non solo. In questo contesto, appunto, sappiamo che la prostituzione nigeriana viene gestita attraverso un'organizzazione che viene generalmente definita come tratta di esseri umani, e cioè attraverso un meccanismo di debito per il quale, insomma, per una donna che viene dalla Nigeria, l'unico modo per raggiungere l'Europa è quello di indebitarsi nei confronti di, diciamo, intermediari che organizzano il loro viaggio. Si parla di debiti molto alti che negli anni sono arrivati a toccare gli 80.000 euro e a volte anche più. Al momento sono succitati proprio perché il filo della tratta è cambiato negli ultimi anni. Inizialmente si trattava di donne piuttosto adulte che lasciavano spesso nel loro paese di origine una famiglia, dei figli, e che appunto contraendo un debito venivano poi impiegate nella prostituzione di strada per poterlo ripagare. Sono ovviamente diciamo, contratti molto variegati e ogni vissuto è diverso, però si possono identificare dei profili più o meno generalizzabili che appunto hanno subito nel tempo delle variazioni, nel senso che con lo svilupparsi di un controllo delle migrazioni sempre più stringente, ovviamente il livello di ricchezza di queste donne è aumentato considerevolmente, è diminuita anche l'età media delle donne che si affidano a questo tipo di contratti per emigrare, e spesso, sempre più spesso, sono donne che vengono reclutate in piccoli villaggi e non più nella città di Benin City, che è un po' l'origine di questo fenomeno. È una città, Benin City, che si trova nel sud-ovest della Nigeria, che ha una storia piuttosto complessa. Era la capitale di un regno molto esteso che all'apice della sua espansione andava dall'attuale confine con la Repubblica del Benin fino al confine con il Camerun, e quindi anche una zona della Nigeria, come molte zone di questo paese, che ovviamente è diventato tale con la dominazione coloniale. La Nigeria nasce ufficialmente nel 1914, però ecco, Benin City appunto aveva, aveva rapporti stretti diplomatici con, soprattutto con il Portogallo durante la sua massima espansione, da quindi caratteristiche culturali estremamente diciamo contaminate, se così si può dire. Una cosa da notare per comprendere quello che è il fenomeno della tratta è che la cosiddetta schiavitù per debito è qualche cosa che ha delle radici storiche piuttosto profonde. Ovviamente è difficile rintracciare delle origini precise nel momento in cui non si hanno delle testimonianze scritte, ma sicuramente durante il periodo coloniale, quando viene introdotta la moneta, molte persone, e anche un sistema di tassazione, molte persone si ritrovano con dei debiti sulle spalle che, non riuscendo a ripagare, appunto, sopperiscono attraverso la loro, diciamo, autoschiavizzazione. Quindi questa pratica, cioè la pratica dell'indebitamento, è qualcosa che appunto ha origini diciamo centenarie in questa parte della Nigeria e non solo, così come anche ha origini coloniali la prostituzione. Nel senso che prima dell'introduzione sia del lavoro salariato, quindi durante l'epoca coloniale, e della moneta, non esistevano scambi di questo tipo. A Benin City si nota molto spesso che appunto la prostituzione è tradizionalmente qualche cosa di sconosciuto, sebbene appunto ormai siano più di 100 anni, ecco, che questi fenomeni si verificano. Si tratta anche di un contesto sociale in cui, diciamo, i rapporti di dipendenza e di gerarchia sono molto sviluppati, di, diciamo, anche clientela e diversi tipi. È molto comune per le persone di umili origini, come servitù domestica, per esempio, già in giovane età, cioè, esistono forme di apprendistato, per esempio, che hanno delle caratteristiche anche molto simili a quelle della schiavitù per debito. A volte lo stesso matrimonio, soprattutto appunto durante i periodi di transizione politica, economica e sociale, come è appunto il colonialismo, diventa un escamotage per continuare a praticare forme di schiavitù che vennero appunto durante il periodo coloniale messe fuori legge. Quindi non è possibile individuare delle linee precise di demarcazione tra diverse forme di rapporti sociali, come possono essere appunto il matrimonio, l'apprendistato e la schiavitù. Un'altra cosa interessante, diciamo, da notare rispetto all'organizzazione della migrazione delle donne nigeriane è che i contratti di debito vengono molto spesso siglati attraverso il giuramento presso altari di divinità più o meno tradizionali, attraverso quello che viene definito come juju. Juju è una parola nigeriana che sta a indicare quelle pratiche, diciamo, legate alla religione cosiddetta tradizionale, per cui nel caso specifico appunto della tratta, diverse parti del corpo di queste donne, cioè i capelli, le unghie, i peli, i pubici, delle ascelle, il sangue mestruale, vengono prelevati e aggregati all'interno di questi sacchetti, bundles, che poi entrano in possesso della persona titolare del debito di queste donne. Questa operazione viene compiuta durante cerimonie che appunto si svolgono con la mediazione dei native doctors, cioè i preti, diciamo, i funzionari delle religioni tradizionali. attraverso rituali che implicano diversi tipi di pratiche, anche qui molto diverse e variegate. Sottoporsi a questo tipo di rituale significa per le donne che poi arrivano in Europa con un debito garantire che ripagheranno la somma di denaro dovuta allo sponsor del loro viaggio e anche allo stesso tempo garantirsi una protezione contro diversi tipi di pericolo che sono sia diciamo legati per esempio alla deportazione che ovviamente è un fenomeno molto diffuso per quanto riguarda le persone di nazionalità nigeriana, che altre forme diciamo di pericolo o violenza. È un patto che influisce non soltanto sulla persona che si indebita, ma anche sul titolare del debito, lo sponsor, che spesso è una donna essa stessa con una storia di tratta, e quindi nel momento in cui questo debito viene ripagato, la persona che appunto ha contratto il debito diventa, tra virgolette, libera, cioè si libera dal rapporto di subordinazione nei confronti del suo sponsor. Si tratta di contratti, di forme contrattuali con origini anche queste molto antiche e probabilmente anche qui legate all'incontro tra l'Europa e questa parte di Africa durante il periodo mercantilista, quando per garantire che appunto i contratti siglati tra persone che non hanno rapporti stretti, rapporti di parentela, si ricorreva proprio alla pratica del feticcio, ed è una pratica che ovviamente affida la gestione della giustizia non al contesto al contesto dei rapporti tra umani, ma all'autorità di una divinità che viene ritenuta come l'unica vera garanzia di giustizia. Nel momento in cui questi patti dovessero essere violati, il fatto che appunto parti del corpo della persona che contrae il debito sono implicate nel contratto stesso significa che la persona può subire delle ritorsioni che appunto arrivano non da un agente umano, bensì appunto da una divinità, quindi significa follia, significa disturbi fisici e non solo fisici, o anche la morte. In effetti molte donne nigeriane subiscono profondamente l'influenza del giudice nel momento in cui qualche cosa nel patto e nel contratto va storto, diciamo. L'idea che in qualche modo la giustizia non appartenga alle relazioni tra umani mi sembra un dato particolarmente significativo anche alla luce di un contesto come quello nigeriano in cui il valore della legge, intesa nel senso giuridico del termine, è piuttosto inconsistente. Si tratta di un contesto in cui domina la corruzione e l'illegalità, corruzione e illegalità che sono strumenti ovviamente di controllo, anche qui sono strumenti di controllo che sono stati attivamente incoraggiati da diciamo, la dominazione coloniale e ancora prima dal sistema della tratta degli schiavi transatlantica, che ovviamente implicava gli europei, i mercanti europei di diversi paesi, di diverse provenienze, e in generale appunto una storia di violenza e spoliazione particolarmente brutale che ha investito questa parte del continente africano, ha fatto sì che i rapporti sociali venissero fondati in qualche modo sulla prevaricazione e la violenza, e in questo senso appunto la religiosità diviene anche una delle, forse l'unica o comunque la più importante appiglio per contrastare una realtà particolarmente dura e particolarmente difficile, cioè non soltanto appunto in virtù di quello che è successo a partire dalla tratta degli schiavi e poi della colonizzazione, ma ovviamente anche dopo la formale indipendenza della Nigeria, che avviene nel 1960, ma ovviamente diciamo l'economia estrattivista monopolizzata dalle multinazionali europee ha continuato a farla da padrone sempre di più, soprattutto dopo la crisi petrolifera. Durante la crisi petrolifera degli anni 70 la Nigeria vive un momento di grossa prosperità economica, proprio perché il petrolio aveva prezzi molto alti, ma nel momento in cui il prezzo del petrolio cade il paese si ritrova profondamente indebitato e quindi deve sottostare ai diktat della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, che impongono un regime di aggiustamento strutturale particolarmente pesante, in concomitanza con il susseguirsi di diverse dittature militari sponsorizzate dalle compagnie petrolifere e dai governi delle più grosse potenze mondiali. Questa situazione si verifica un impoverimento generalizzato che si traduce nella totale distruzione del sistema, per esempio, scolastico ed universitario, nell'investimento sulle infrastrutture, quindi strade, i flussi di fornitura elettrica. I blackout sono all'ordine del giorno, cosa che rende molto difficile il piccolo commercio, ad esempio, che è una delle attività principali, è la principale fonte di sostentamento per grande parte della popolazione, che progressivamente appunto con il cosiddetto sviluppo si è spostata dai villaggi verso le città. C'è una forte urbanizzazione, un paese ovviamente più popoloso dell'Africa, anche la prima economia africana, ma esistono diseguaglianze enormi. C'è stato un progressivo abbandono della terra, delle campagne, anche a favore ovviamente delle multinazionali. Soprattutto l'olio di palma è diventata la principale fonte, diciamo, o comunque coltivazione intensiva, a partire proprio dal periodo coloniale, quando finisce la tratta degli schiavi ufficialmente, e poi l'industria del legname, dei legnami pregiati. Quindi c'è anche una forte deforestazione, un'aggressione ambientale molto, molto significativa, e d'altra parte appunto la maggioranza della popolazione sopravvive grazie all'economia informale e al piccolo commercio. In questo settore sono impiegate moltissime donne, anche perché le leggi, per esempio, sulla proprietà e sull'eredità impediscono alle donne di ereditare proprio la proprietà, e quindi in un contesto in cui comunque le donne hanno una loro sfera economica indipendente, si dedicano per l'appunto proprio al commercio. Ed è anche in questa chiave forse che possiamo comprendere come le donne nigeriane in particolare sono arrivate in Europa, appunto attraverso anche legami commerciali molto spesso già c'erano dei contatti, appunto precedentemente allo sviluppo della tratta, dei contatti di tipo commerciale, per cui le donne che potevano, soprattutto quando la naira, la moneta nazionale, era forte, recarsi in Europa per comprare merce all'ingrosso e poi rivenderla in Nigeria. Altra cosa significativa è che già nel periodo coloniale le donne nigeriane migravano verso soprattutto altri paesi dell'Africa occidentale per esercitare proprio la prostituzione. E questo appunto è testimoniato in diversi paesi dell'Africa occidentale già a partire dai primi del Novecento. Per tornare al contesto politico-economico in cui si sviluppa la tratta, gli anni Ottanta sono il periodo in cui appunto inizia, cioè si intensifica una forma di gestione del potere fondata sulla corruzione. È il momento in cui inizia il traffico della droga proveniente dal Sud America, che ha nella Nigeria uno dei suoi punti di maggiori punti di transito. Il periodo in cui si sviluppa il traffico dei rifiuti tossici, soprattutto ovviamente dall'Italia, attraverso organizzazioni come quella camorristica, che ovviamente hanno dei legami anche con apparati dello Stato e forze diplomatiche, ed è proprio appunto attraverso questi legami che le donne nigeriane riescono in qualche modo ad ottenere i documenti per arrivare in Italia. Nei primi anni 90 a Torino, che è una delle prime destinazioni della tratta, la forte presenza di donne nigeriane nelle strade dà adito a due inchieste parlamentari che cercano di capire le origini di questo fenomeno, e in questo frangente emerge come funzionari delle ambasciate di diversi paesi europei, tra cui ovviamente anche l'Italia, dietro somme di denaro, la corresponsione di somme di denaro, elargiscono appunto visti perché queste donne possono arrivare in Italia. Sono inchieste anche giudiziarie che vengono insabbiate, che coinvolgono diplomatici che avevano legami sicuramente anche con sia imprese come Impregilo, per esempio, che con il traffico dei rifiuti tossici, non soltanto con la Nigeria ma anche con altre parti dell'Africa, nello specifico il Corno d'Africa. Le inchieste vengono appunto insabbiate anche con omicidi di familiari, di persone legate agli imputati nel processo, e da quel momento a quanto mi risulta non si è più proceduto appunto per vie giudiziarie ad alti livelli, quindi ci si concentra anche nel discorso mediatico pubblico soprattutto sulla figura della Madame, senza andare veramente a scavare nei rapporti di più alto livello che rendono possibile questo tipo di organizzazione. Non è ovviamente facile tracciare questi legami, insomma, cioè si tratta di qualche cosa di estremamente nebuloso, ovviamente, e appunto negli ultimi anni c'è stata una inversione di tendenza, o perlomeno una mutazione nell'organizzazione della tratta, perché fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, molte delle donne arrivavano per via aerea con viaggi anche abbastanza complessi, si poteva anche passare da Hong Kong per arrivare in Italia, però ecco, il fatto che si arrivasse in aereo significava che gli sponsor di questi viaggi avevano la possibilità di corrompere ufficiali di frontiera a vari livelli. Questo sembra essere sempre meno il caso, e infatti negli ultimi anni si assiste piuttosto agli sbarchi delle donne nigeriane che poi vengono ovviamente dirottate verso i centri d'accoglienza da cui immancabilmente scappano, per contattando appunto chi poi dovrà gestire il loro lavoro in Italia.